Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Harriet, povera Harriet! Queste erano le parole che sintetizzavano le idee tormentose delle quali Emma non riusciva a sbarazzarsi e che costituivano per lei la vera disgrazia di tutta la faccenda. Frank Churchill si era comportato molto male con lei, molto male sotto diversi aspetti. Ma non era tanto il suo contegno quanto quello di lei che l'irritava. Era l'imbroglio in cui l'aveva messa riguardo ad Harriet, quello che dava all'affronto il sapore più aspro. Povera Harriet, essere una seconda volta zimbello della sua storditaggine e della sua adulazione. Mr. Knightley aveva parlato profeticamente quando aveva detto «Emma, lei non è stata amica di Harriet». Ed Emma temeva di non averle fatto altro che male. È vero che in questo episodio non aveva da rimproverarsi come nel primo d'essere stata la sola e originale autrice del malanno, di aver suggerito sentimenti che in caso contrario non sarebbero mai entrati nella fantasia di Harriet, giacché questa aveva riconosciuto la propria ammirazione e simpatia per Frank Churchill prima che ella ne accennasse mai. Tuttavia Emma si sentiva pienamente colpevole di aver incoraggiato quello che si sarebbe potuto moderare. Avrebbe potuto trattenerla dall'abbandonarvisi e impedire che tali sentimenti divampassero. La sua influenza sarebbe bastata a questo fine, e ora capiva che avrebbe dovuto assolutamente farlo. Sentiva che aveva rischiato la felicità della sua amica per motivi del tutto inconsistenti. Il buon senso avrebbe dovuto spingerla a dire ad Harriet che non doveva permettersi di pensare a lui e che v'erano appena 5 probabilità su 100 che egli si curasse di lei. «Ma col buon senso», aggiunse, «temo di aver poco a che fare». Era estremamente irritata con se stessa e se avesse potuto non esserlo anche con Frank Churchill sarebbe stato terribile. Quanto a Jane Fairfax, poteva almeno sgravarsi la coscienza da ogni sollecitudine nei suoi riguardi. Motivo sufficiente di ansietà sarebbe stata Harriet. Non aveva più motivo di crucciarsi per Jane, i cui malanni e la cui indisposizione, avendo naturalmente la stessa origine, non potevano entrambi non guarire. I suoi giorni d'oscurità e sofferenza erano cessati. Si sarebbe presto rimessa, sarebbe stata ricca e felice. Ora poteva ben immaginare Emma perché dalle sue premure si fosse fatto poco conto, e questa scoperta chiariva anche molte questioni minori. La causa era stata evidentemente la gelosia. Agli occhi di Jane, Emma era apparsa come una rivale, ed era logico che qualunque offerta di aiuto fosse rifiutata. Una passeggiata nella carrozza di Harfield sarebbe stata un supplizio. La fecola della dispensa di Harfield, veleno. Capiva tutto ciò, e nei limiti in cui la sua mente riusciva a liberarsi dall'ingiustizia e dall'egoismo di sentimenti esacerbati, riconosceva che Jane Fairfax non sarebbe salita nella scala sociale, né avrebbe goduto più felicità di quanta meritasse. Ma la povera Harriet era un tale tormento. Ben poca era la simpatia da risparmiare per altri. Emma temeva seriamente che questa seconda delusione le riuscisse ancora più dura della prima. Era inevitabile, tenuto conto delle maggiori pretese del soggetto. E certo, a giudicare dall'influsso apparentemente più forte sull'anima di Harriet e dal riserbo e autocontrollo che determinava in lei, così sarebbe stato. E tuttavia, rivelarle la triste verità bisognava, e al più presto possibile. Fra le parole di commiato di Mr. Weston c'era stata la preghiera di mantenere il segreto. Per il momento la faccenda doveva rimanere completamente segreta, aveva detto. Il signor Churchill ci aveva insistito come pegno di riguardo alla moglie da poco perduta e non si poteva non convenire che il giusto decoro lo imponesse. Emma aveva giurato di attenervisi, ma un'eccezione per Harriet bisognava farla. Era suo primo dovere. Per quanto irritata, A Emma doveva sembrare quasi ridicolo che le toccasse di svolgere nei riguardi di Harriet lo stesso compito imbarazzante e delicato che la signora Weston aveva appena assolto nei riguardi suoi. La stessa notizia che le era stata comunicata con tanta ansia doveva ora ansiosamente comunicarla ad altri. Il cuore le batté forte nel sentire il passo e la voce di Harriet. Probabilmente le stesse sensazioni aveva provato la povera signora Weston mentre lei si avvicinava a Randalls. Almeno l'episodio della rivelazione fosse potuto assomigliare, ma questo, ahimè, era tutt'altro che probabile. «Beh, Miss Woodhouse!» esclamò Harriet entrando con mosse vivaci nella stanza. «Non è la notizia più buffa che mai sia stata?» «A che notizia allude?» rispose Emma, non riuscendo dall'espressione o dalla voce dell'amica a stabilire se qualcosa le fosse o no giunto all'orecchio. «Su Jane Fairfax! Ha mai sentito nulla di più curioso? Oh, non deve temere di confidarmelo, perché me l'ha già detto Mr. Weston. L'ho incontrato proprio ora. Mi ha detto che doveva rimanere un gran segreto e perciò non mi sognerei di accennarne ad altri che a lei. Ma il signor Weston mi ha detto che lo sapeva già». «Che cosa le ha detto?» domandò Emma sempre perplessa. «Oh, mi ha detto tutto. Che Jane Fairfax e Mr. Frank Churchill si sposeranno e che in tutto questo tempo sono stati fidanzati. Che strano!» Era in verità tanto strano e il contegno di Harriet così bizzarro che Emma non sapeva come interpretarlo. Il suo carattere sembrava radicalmente cambiato. Pareva decisa a non mostrare né agitazione né disappunto né una particolare ansia per quella scoperta. Emma la guardò, assolutamente incapace di parlare. «Ne aveva la più pallida idea che le volesse bene?» domandò Harriet. «Lei forse sì, lei», aggiunse arrossendo nel dirlo, «che sa leggere nel cuore di tutti, ma nessun altro». «Parola d'onore», disse Emma. «Comincio a dubitare di avere anche solo l'ombra di una dote simile. Può chiedermi seriamente, Harriet, se l'immaginavo innamorato di un'altra donna nel momento stesso che tacitamente, se non apertamente, incoraggiavo i suoi sentimenti? Non ho mai avuto, fino all'ultima ora, il più pallido sospetto che Mr. Frank Churchill avesse la minima simpatia per Jane Fairfax. Le assicuro che, se l'avessi avuto, l'avrei messa in guardia». «In guardia me?» esclamò Harriet, arrossendo e cadendo dalle nuvole. «Perché avrebbe dovuto mettermi in guardia? Non penserà per caso che fossi innamorata di Frank Churchill? Mi rallegro di sentirla parlare con tanta fermezza su questo punto», rispose Emma sorridendo. «Ma vorrà negare che c'è stato un tempo, e neppur così lontano, in cui mi ha dato ragione di credere che fosse innamorata?» «Di lui? Mai, mai! Cara Miss Woodhouse, come ha potuto interpretarmi così male?» chiese volgendo il capo imbarazzata. «Harriet, che cosa vuol dire?» esclamò Emma dopo breve silenzio. «Buon Dio, che cosa vuol dire? Interpretarla male? Devo dunque supporre...» Non poté dir altro. Aveva perso la voce e si sedette, aspettando nel più profondo terrore che Harriet rispondesse. Harriet, che le era un po' lontana con la faccia rivolta altrove, non disse immediatamente nulla, e quando parlò fu in una voce poco meno agitata di quella di Emma. «Non avrei mai creduto possibile che mi interpretasse così male. So bene che avevamo convenuto di non nominarlo mai, ma considerando come sia così infinitamente superiore a chiunque, non avrei mai creduto possibile si supponesse che alludevo a un altro. Mr. Frank Churchill, figurarsi! Non so chi potrebbe guardarlo in compagnia dell'altro. Spero di aver miglior gusto che di pensare a Mr. Frank Churchill, il quale accanto a lui non è nulla. Ma che lei abbia preso un abbaglio simile mi stupisce proprio. Sono sicura che se non avessi creduto di sentirmi approvata e incoraggiata da lei nel mio attaccamento, a tutta prima mi sarebbe sembrata un'eccessiva presunzione, anche solo osar di pensargli. Se non mi avesse detto che cose anche più straordinarie sono avvenute, che ci sono stati matrimoni anche più disuguali, Così si era espressa lei. Non avrei certo osato, non l'avrei creduto possibile. Ma se lei, che l'ha sempre conosciuto... Harriet! Esclamò Emma riprendendosi decisamente. Facciamo in modo di capirci ora senza la possibilità di nuovi malintesi. Lei parla di Mr. Knightley? Ma certo, non ho mai pensato ad altri e credevo che anche lei lo sapesse. Quando ne parlavamo, più chiaro di così non poteva essere. Emma rimase assorta in mute riflessioni. Pochi minuti bastarono a farle conoscere il proprio cuore. Una mente come la sua, una volta apertasi al sospetto, faceva passi da gigante. Toccò, ammise, riconobbe tutta la verità. Perché era tanto peggio che Harriet fosse innamorata di Mr. Knightley invece che di Frank Churchill? Perché il male era tanto aggravato dalla speranza di Harriet che l'amore fosse corrisposto? E con la rapidità di un baleno le attraversò la mente che se Mr. Knightley doveva sposare qualcuno, non poteva essere altri che lei stessa. Con pari rapidità le si dischiuse, come il suo cuore, così la sua condotta. La vide con una chiarezza di cui non aveva mai avuto il bene. Come si era comportata scorrettamente con Harriet, come era stato sconsiderato, indelicato, irrazionale, cieco il suo contegno. Che follia l'aveva trascinata. Ne era terribilmente sconvolta e pronta a chiamarla con ogni brutto nome. Ma un minimo di rispetto per sé, nonostante le sue colpe, una certa ansia per la sua figura e un forte senso di giustizia verso Harriet consigliarono ad Emma di tollerare con calma e anche apparente gentilezza. Per la sua stessa tranquillità bisognava assaggiare tutta l'estensione delle speranze di Harriet, la quale d'altronde non aveva fatto nulla per compromettere il riguardo e l'interesse che Emma aveva volontariamente maturato e conservato, o per meritare il disprezzo della persona i cui consigli non l'avevano mai guidata bene. Perciò, scrollandosi dai suoi pensieri e dominando l'emozione, si rivolse nuovamente ad Harriet e con accento più dolce riallacciò il filo del discorso. Giacché quanto al soggetto che l'aveva aperto, la stupefacente storia di Jane Fairfax, questo era ormai dileguato. Né l'una né l'altra avevano in mente che Mr. Knightley e se stesse. Harriet, che era rimasta assorta in tristi fantasticherie, fu ben lieta di lasciarsene distrarre dai modi ora incoraggianti di una giudice e amica come Miss Woodhouse, e non chiedeva che un invito per raccontare, con grande seppur trepida gioia, la storia delle sue speranze. Le trepidazioni di Emma nel chiedere e nell'ascoltare seppero meglio nascondersi di quelle di Harriet, ma non furono minori. La sua voce non era malferma, ma l'anima era in tutto lo scompiglio che un simile sviluppo, una simile esplosione di guai, una matassa così confusa di emozioni improvvise e sconcertanti dovevano necessariamente creare. Ascoltò, con molta sofferenza interna, ma con grande pazienza esteriore, il racconto di Harriet. Non poteva pretendere che fosse metodico o ben delineato o molto chiaramente esposto, ma fatto il calo delle debolezze e tautologie del discorso, c'era in esso un nocciolo sufficiente per immalinconirla, soprattutto se corroborato dalle circostanze che la sua stessa memoria portava a sostegno dell'opinione decisamente migliore di Mr. Knightley su Harriet. Harriet aveva notato in lui un cambiamento di modi a partire da quei due balli fatali. Emma, a sua volta, sapeva che nella stessa occasione l'aveva trovata molto superiore all'attesa. E da quella sera, o almeno da quando Miss Woodhouse l'aveva incoraggiata a pensare a lui, Harriet aveva cominciato a notare che le parlava molto più di quanto fosse solito e aveva con lei modi affatto diversi, modi improntati a bontà e dolcezza. Negli ultimi tempi, poi, l'impressione s'era fatta ancora più distinta. Quando tutti avevano passeggiato insieme, le era venuto così spesso vicino, le aveva parlato in modo così delizioso. Era come se desiderasse conoscerla. Emma sapeva che proprio così stavano le cose. Aveva più volte notato, e quasi allo stesso grado, quel cambiamento. Harriet ripeté espressioni di stima e d'elogio da lui ricevute, ed Emma sentì che collimavano perfettamente con quanto aveva saputo dalla sua opinione su Harriet. La lodava per essere priva d'affettazione e d'artificio, per avere sentimenti semplici, onesti e generosi. Che Knightley le riconoscesse questi meriti, Emma lo sapeva. Egli vi si era più volte soffermato con lei. Molto di ciò che viveva nella memoria di Harriet, molti piccoli particolari dell'interesse che le mostrava, uno sguardo, una frase, il passaggio da una sedia all'altra, un complimento sottinteso, una preferenza intuita, a Emma erano passati inosservati solo perché insospettati. Circostanze che potevano gonfiarsi fino a divenire relazioni di mezz'ora e che, per lei che le aveva vissute, contenevano molteplici prove di simpatia, non avevano colpito l'attenzione di chi ora le udiva. Conclusa la deposizione, Harriet chiese alla cara Miss Woodhouse di dirle se non aveva buone ragioni di sperare. Non mi sarei mai sognata di pensarci a tutta prima se non era per lei. Mi ha consigliata di osservarlo attentamente e di lasciarmi guidare nel modo di comportarmi dal suo. Così ho fatto. Ma ora mi sembra di sentire che posso meritarlo e che se mi scegliesse non ci sarebbe proprio nulla di straordinario. Gli amari sentimenti, i molti amari sentimenti causati da questo discorso, resero necessario da parte di Emma lo sforzo più serio per rispondere. Harriet. Mi limiterò a dire che Mr. Knightley è l'ultimo uomo al mondo che possa dare intenzionalmente a una donna l'impressione di volerle più bene che non gliene voglia in realtà. Harriet parve pronta ad adorare l'amica per una frase così favorevole, e trasporti e tenerezze che in quel momento sarebbero stati una penitenza insopportabile furono risparmiati ad Emma solo dal rumore dei passi del padre. Attraversava l'atrio. Harriet era troppo agitata per incontrarlo. Non riusciva a dominarsi, disse. Mr. Woodhouse se ne sarebbe allarmato. Faceva meglio ad andarsene e col pronto incoraggiamento dell'amica passò nell'altra stanza. E appena se ne fu andata, questa fu la naturale esplosione dei sentimenti di Emma. Oh Dio, non l'avessi mai vista! Né il resto del giorno né la notte successiva bastarono per i suoi pensieri. La confusione di tutto quanto le era piombato addosso nelle ultime poche ore la esasperava. Ogni momento aveva recato una sua nuova sorpresa e ogni sorpresa era per lei motivo di umiliazione. Come raccapezzarcisi? Come capire gli imbrogli in cui si era messa e nei quali era vissuta a tutto suo danno? Gli abbagli, la cecità della mente e del cuore. Sedeva immobile, camminava su e giù, provava la sua stanza, provava l'arboreto. Dovunque, in qualunque posizione, l'accompagnava il senso di aver agito con grande debolezza, di essersi lasciata ingannare dagli altri in modo ancora più mortificante, d'essere infelice e di non dover considerare quel giorno altrimenti che come l'inizio di nuove pene. Capire, capire a fondo il proprio cuore fu il suo primo sforzo. A questo fu dedicato ogni attimo di libertà concessole dalle esigenze del padre, ogni momento di involontaria distrazione. Da quanto tempo Mr. Knightley le era stato caro come tutto in lei ora proclamava? Quando era cominciata la sua influenza, un'influenza così profonda? Quando aveva preso nei suoi affetti il posto che aveva occupato per breve tempo Frank Churchill. Si volse indietro, confrontò i due. Li confrontò quali erano sempre apparsi a suo giudizio dal tempo che aveva conosciuto il secondo e come in qualunque momento li avrebbe confrontati se mai, oh, se mai per una benedizione del cielo le fosse venuto in mente di istituire un confronto. Capì che mai in nessun momento non aveva giudicato infinitamente superiore Mr. Knightley, che mai le sue attenzioni non le erano state infinitamente più care. vide che, convincendosi del contrario, fantasticandoci sopra, agendo in senso opposto, era rimasta vittima di una completa illusione, di un'assoluta ignoranza del proprio cuore. Insomma, che di Frank Churchill non le era mai importato nulla. Questa è la conclusione della prima serie di riflessioni. Questa è la conoscenza di se stessa raggiunta nella prima parte dell'indagine, e senza che occorresse molto per raggiungerla. E ne rimase triste e indignata, vergognosa di ogni sentimento che non fosse quello a lei rivelatosi, l'affetto per Mr. Knightley. Ogni altra parte della sua anima era disgustosa. Con vanità insopportabile si era creduta a parte del segreto dei sentimenti di ciascuno. Con imperdonabile arroganza aveva preteso di decidere del destino di tutti. In qualunque caso aveva mostrato d'essersi sbagliata, e non che non avesse fatto proprio nulla, aveva combinato solo guai. A danno di Harriet, a danno proprio, e temeva molto a danno di Mr. Knightley. Se questo matrimonio fra tutti il più scompagnato doveva avvenire, su lei sarebbe ricaduta la colpa di avergli dato avvio, giacché l'attaccamento di lui non poteva spiegarsi che come il prodotto della coscienza dell'attaccamento di Harriet. E se anche così non fosse stato, egli non avrebbe mai conosciuto Harriet se non per la sua scapestrataggine. Mr. Knightley e Harriet Smith, un'unione rispetto alla quale ogni meraviglia del genere passava in ombra. Al confronto, l'amore di Frank Churchill per Jane Fairfax diveniva banale, frusto, insipido, incapace di destar sorpresa, di presentare squilibri, di dar esca alla conversazione o al ragionamento. Mr. Knightley e Harriet Smith, un tale passo avanti per lei, un tale passo indietro per lui. Era un pensiero orribile, come sarebbe scaduto nell'opinione generale. Era angoscioso prevedere i sorrisi, i sogghigni, il dileggio che si sarebbe attirati. La mortificazione e lo sdegno del fratello, i mille inconvenienti che ne sarebbero risultati per lui medesimo. Era mai possibile? No, che non lo era. E tuttavia era lungi, ben lungi dall'essere impossibile. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it